vetrine dei coralli, per le strade che vanno su e giù, scogliere e sentierelli pitturati di sole di blu. Qui sotto il cielo di Capri, come bello sognare mentre mormora il mare. Qui tra spalliere di rose e di gricini in fior, paradiso e l'amore. Qui la vita un'azzurra leggenda ti pare, fai cullare.